ciao a tutti, di nuovo qui in diretta, con me in diretta, dalla vetrina di Soria Anarchica. Abbiamo qui due esponenti del collettivo Arto e bene, ve li volevo presentare. Io sono Diego. Io sono Alberto. E sono qui anche loro con il loro spazio, appunto con la loro distribuzione, ma più in generale, visto che è la prima volta che ne parliamo a Radio Wombat, vi volevo chiedere di introdurre il vostro collettivo e di dirci esattamente di cosa si tratta. Il collettivo nostro è un collettivo antipsichiatrico, Antonin Artaud. È nato a Pisa, operiamo principalmente a Pisa, anche se avendo attivato anche un telefono d'ascolto, un telefono viola, come si definisce, arrivano telefonate un po' da tutte le parti. E diciamo, è nato 12 anni fa, quindi è già passato parecchio tempo e abbiamo conosciuto tante situazioni, abbiamo conosciuto tante esperienze. L'impegno nostro possiamo definirlo un gruppo caldo, giusto? Sì, sì, siamo un gruppo caldo. Siamo un gruppo caldo, ci si relaziona direttamente e basiamo anche il confronto con le persone che ci chiedono aiuto proprio sul confronto diretto, sul parlare senza intermediazioni digitali, il meno possibile almeno. Comunque diciamo principalmente su due filoni cerchiamo di sviluppare la nostra attività, una culturale nel senso di diffondere quanto più possibile come la psichiatria sia stata utilizzata e sia uno strumento del potere e come sia fondata su analisi assolutamente non scientifiche, su opinioni, su pareri, su culture, su storie, ma non su criteri scientifici, quindi sia una branca medica del tutto non scientifica come le altre. Poi sulla scientificità si può stare a discutere molto, però sicuramente anche molto utilizzata da tutti i poteri proprio come strumento di dominio. E quindi una parte culturale, quindi come fare a meno anche della psichiatria, una parte di aiuto diretto alle persone che si rivolgono a noi. È senz'altro la parte più difficile, si ha a che fare con esperienze difficili, complicate. Non c'è una bacchetta magica, ogni caso è diverso, non sempre riusciamo ad aiutare le persone, questo a volte causa anche frustrazioni nel gruppo, però sono anche belle le vittorie, liberare le persone dall'obbligo di cura, liberare le persone dal giogo a cui le costringe la psichiatria, che ti costringe poi per tutta la vita, liberarle dai trattamenti sanitari obbligatori. Sono piccole vittorie che però ci danno la speranza che se nascessero tanti gruppi così si potrebbe difendersi molto di più. E poi ci mette a confronto con ciò che sta succedendo in Italia, l'uso sempre più massiccio del trattamento sanitario obbligatorio, siamo arrivati a 20.000 circa ricoveri all'anno che vengono effettuati. Il fatto che la chiusura dei manicomi sia come sempre solo un nome, una bandiera sbandierata, in realtà ci sono 320 SPDC, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che non sono altro che dei piccoli manicomi negli ospedali, c'è la riproduzione di queste nuove REMS, residenze esecuzione misure di sicurezza, che sostituirebbero l'OPG, ma dove è sempre il solito sistema cura, diagnosi, cura e abominio di uso di psicofarmaci, perché poi questa è la cosa più grave, è che nella nostra società c'è un utilizzo massiccio di psicofarmaci, di droghe legali, come le definiamo noi, e vengono distribuite da ormai, si capisce nettamente che c'è anche un discorso economico dietro, oltre che di controllo sociale, e intrecciandosi le due cose è un binomio che veramente sta facendo danni alla società. Quindi in questo senso noi vorremmo che tutto il movimento si rendesse conto di quanto sia importante questo aspetto, sì, questo sistema di controllo. Un grosso strumento repressivo, è proprio un'arma sempre nei sistemi forte, ma no? Anche la stessa psichiatria come nascita, noi abbiamo scritto un libro anche sull'elettroshock, anche l'idea di scioccare il corpo umano con la metrazol, il cardiazol, l'elettroshock, gli psicofarmaci successivamente, sia un'idea nata in un contesto culturale come quello dei primi del Novecento, in cui fiorivano le culture dell'eugenetica, della teoria della razza, della superiorità. Sono anni in cui non solo in Germania si sterminarono tutti i malati mentali, occidentali, ma anche nell'altra civile Europa, parliamo della Svezia, cominciarono a sterilizzare gli zingari, sterilizzare i detenuti, anche in America lo fecero questo, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi un terreno di cultura era quello in cui la psichiatria si sviluppò, e in particolare le dottrine più dure, l'elettroshock, tutte queste... La castrazione chimica per l'omosessualità in Inghilterra, è sempre stato un po' fiore all'occhiello. L'omosessualità è un esempio di come una malattia mentale che è stata considerata tale per decine di anni della psichiatria, adesso non lo è più, in alcuni paesi lo è ancora considerata malattia mentale. Adesso le attuali malattie mentali sono la doppia diagnosi, quelli che si consumano sostanze illegali, non fornite dagli psichiatri, quelli illegali del mercato nero. Allora quelli sono malati psichiatrici, o sono i bambini troppo agitati a scuola, o gli anziani. Il bipolarismo che viene appioppato. Il bipolarismo, ci sono tante nuove categorie di malattie che si inventano ogni volta per alimentare il mercato dei farmaci alla fine. Invece come vi ponete in base alla psicologia, alla psicanalisi, alla psicoterapia? Noi siamo contro l'obbligo di cura, nel senso noi siamo contrari quando c'è un obbligo, se poi è una libera scelta noi sta bene, cioè nel senso il problema, medicine, esatto, no, il problema non è, cioè per me se una persona ci dice io ho scelto liberamente di pigliare delle gocce perché non dormo, se noi sulle libere scelte delle persone non entriamo. Entriamo su, il problema per noi è l'obbligo di cura, cioè noi siamo per un diritto al rifiuto delle cure, cioè sul mio corpo, su come curarmi scelgo io, quando invece mi è obbligato e devo fare un percorso e se non lo faccio poi allora mi ricattano, se non viene a prendere la terapia ti facciamo fare un TSO e se non viene a fare la visita allora ti veniamo a prendere a casa. Su questo noi siamo contrari perché pensiamo che appunto non essendo una, per noi non essendo una malattia, quindi su un processo psicoterapeutico noi pensiamo che dovrebbe scegliere la persona se affrontarlo, se farlo oppure no. Sul processo psicoterapeutico no, nessuno, come anche su questo è chiaro che nessuno è contrario, anzi non vogliamo cadere, e questo è un motivo di discussione anche all'interno del collettivo, perché chiaramente quando cominciamo ad ascoltare le persone è facile cadere nell'assistenzialismo, ed è quello in cui non vogliamo ricadere. Cerchiamo di cercare di dire alle persone ci sono tante vie per uscire dalla sofferenza in cui è innegabile che tante volte le persone si trovino, soprattutto nel contesto attuale di questa società che disgrega sempre di più le relazioni sociali, la gente si trova sola, chi è più solo è più colpito, si sente isolato, si sente fuori contesto e da lì può finire nelle braccia della psichiatria. E per cui un modo di cura è brutto dirlo, sono proprio le relazioni sociali, però noi vediamo che questo è uno dei modi migliori perché le persone ritrovino se stesse, però ognuno poi deve trovare il suo percorso e noi non vogliamo essere quelli che ricadere nel meccanismo della psichiatria di proporre noi dei modelli. È indubbio che poi le persone che vengono anche allo sportello si crea un confronto fra varie persone e quindi vengono consigli anche da utenti che dicono ma di persone che hanno subito la psichiatria dicono io sono riuscito a uscire dal farmaco in questo modo, facendo ginnastica, facendo yoga, facendo massaggi, facendo un'alimentazione in un certo modo. Ognuno ha il suo modo. A livello individuale o magari di gruppo? A volte succede che si crea un'occasione di gruppo quando allo sportello facciamo ogni due volte al mese uno sportello di ascolto dove le persone che a volte sono rivolte per telefono vengono e lì abbiamo più tempo da stare insieme. A volte si creano anche momenti di gruppo interessanti perché appunto ci sono consigli fra persone che hanno attraversato le gabbie psichiatriche che possono essere d'aiuto ad altri. Un problema che ci siamo trovati ad affrontare è che le persone chiedono a noi un intervento terapeutico, cioè chiedono a noi, capito, la presa in carico. E su questo noi siamo andati in contraddizione, ne ragioniamo, ne discutiamo e cerchiamo di fornire un aiuto tecnico e un supporto di rete, cioè quindi ascolto di intervento quando si può fare, però un intervento tecnico, perché nessuno di noi fa il dottore o lo vuole fare. L'intervento è sull'aiuto legale o su come uscire tecnicamente con le leggi, col cavilli o un intervento nostro di consiglio, ma non è, cioè noi cerchiamo, ci siamo resi conto che molto spesso le persone, a parte la maggior parte ci chiedono l'ascolto, di essere ascoltate, cioè di avere una rete di persone che le sostengono in un momento di difficoltà. Questa è la richiesta principale che ci viene fatta al telefono o allo sportello. ma soprattutto quando ci viene chiesto un intervento terapeutico, noi dobbiamo essere chiari e dire questo non lo possiamo fare, perché sennò si farebbe una psichiatria alternativa, cosa che non è intenzione del collettivo. Su questo siamo cresciuti, è stato un percorso, non è che siamo nati imparati. È un divenire, tutti i giorni su un confrontarsi, stando attenti a fare, andare nella direzione che vogliamo e non andare in quella. Però le persone molto spesso ce lo chiedono. Noi cerchiamo appunto di aiutarli in caso di TSO, di fare delle richieste di revoca, dei ricorsi. Consigliare anche a volte, ci tocca avvalerci anche di avvocati, cerchiamo sempre avvocati che conoscono la legge 180, la legge che regola la psichiatria, perché sono rari gli avvocati che maneggiano di questa legge. Quindi cerchiamo anche con questo, insieme alla rete dei telefoni viola, che esiste una rete di altri collettivi. Alcuni hanno il telefono attivato, altri no, però più o meno ci si riunisce periodicamente, cercando di mantenere anche per esempio la rete dei legali, degli avvocati disponibili a operare come riferimento. Quindi cerchiamo di cerchiamo di tenerci quindi le informazioni in rete in questo modo. È l'unico modo che per ora per riuscire a contrastare il potere psichiatrico. Non è facile, perché guardate che la psichiatria si sta allargando sempre più, lo dicevamo prima, ai bambini, nelle scuole, ormai si tende a dire la persona è malata, no? Piuttosto che andare a vedere il contesto sociale in cui si crea il disagio. In generale, come esperienza, che mi sono sempre interessata di antipsichiatria qua a Firenze, in generale mi sembra che ci sia una tendenza proprio a... cioè che il farmaco, che si sia abbassato proprio il livello di gestione del farmaco, che si tenda proprio in generale, chiaramente dipende dal tipo di terapeuta, però in generale mi sembra che ci sia, almeno nella mia piccola esperienza, una facilità a ricorrere subito al farmaco. Accidenti. Il dialogo c'è sempre meno nei CIM. Quando si va dalla lista, quello che lamentano moltissimi, ma anche chi si rivolge al servizio pubblico, che pensa magari che c'è la depressione, vado lì, cerco un aiuto, difficilmente trova ascolto. Il colloquio è brevissimo. È 10 minuti, 5 minuti, poi ti prescrivono la pillola. E attenzione, perché poi lì si rimane agganciati a vita, nel senso che ormai con la digitalizzazione tutto questo rimane tracciato, rimane dentro nei computer dell'ASL, quindi quella persona ormai è stigmatizzata, etichettata, è andato al pronto soccorso, era depresso, quindi ha un problema mentale, rimane classificata nel computer con quella cosa lì, viene rifermato in un'altra occasione, certo, ritornerà fuori quella cosa, tu hai avuto dei problemi strumentali. Per quello che noi diciamo, attenzione, non andate mai volontariamente dallo psichiatra, piuttosto cercate un privato, anche se è brutto dirlo, però almeno il privato forse non ti denuncia al pubblico, non c'è il fascicolo della regione che intercetta con le debolezze, però meglio non andarci. Se sei arrivato comunque al comprare un farmaco, viene nel tuo, in realtà anche quello ora è ancora più difficile, anche il privato, la ricetta rientra nel sistema quando vanno a vedere che tu hai più difficile, sono più passaggi, ma in realtà poi anche dal privato. Un problema che lamentiamo è che c'è una risposta unica per tutti, cioè purtroppo non si va a vedere la persona, perché ognuno è diverso dall'altro e ci sono varie situazioni, quindi andrebbe preso persona per persona, situazione per situazione, ascoltata, capita e ascoltata soprattutto. Dicevo, noi cerchiamo di, ma qual è la tua richiesta? Ecco, la domanda che facciamo spesso è cosa chiede al collettivo. Su questo la psichiatria, la risposta unica, vuoi perché è più semplice, vuoi perché costa meno, vuoi perché si fa anche un business e si controlla meglio. La risposta purtroppo, quella che lamentiamo, sono i farmaci. Anche più facile per il è molto più facile anche. Sei già in condizione di essere trattato in maniera più. Esatto, poi c'è l'affidamento all'autorità medica, quindi se me l'ha detto il dottore faccio come mi ha detto, e questo crea un po' tutto un cerchio da cui è difficile uscire, un vincolo molto. Io avrei una domanda, perché molti dei casi mi sembra, almeno questa la mia impressione, già da un po' di anni a questa parte, mi sembra che poi uno dei problemi fondamentali, voi lo saprete sicuramente, nei casi di TSO coatti, insomma, fatti fare appunto obbligatoriamente siano proprio le famiglie stesse, perché le famiglie stesse sono i primi che io nella mia purtroppo esperienza ho visto molto spesso che sono proprio, no? È giusto. Penso che circa l'80% dei casi che ci si rivolgono a noi sono conflitti familiari. Quantomeno dall'autorizzazione. In cui uno dei due finisce, uno dei due in conflitto. In effetti poi molti dicono il disagio mentale non sono altro che conflitti con persone, conflitti con se stessi, è una delle definizioni di Bucalo, no? Un altro antipsichiatra siciliano, ed è vero quanto mai, effettivamente noi riscontriamo che nella famiglia spessissimo ci sono incomprensioni, in effetti la famiglia non si sceglie, non è come l'amicizia, si capita e si può non andare d'accordo, il fatto di dover convivere sotto lo stesso tetto e quindi dover compromettersi con un altro spesso genera liti che portano sempre più spesso al 118, non so cosa fare, uno dei due, e lì inizia la carriera psichiatrica di una delle persone della famiglia. Carriera che non si conclude mai, perché attenzione, di malattia mentale, ad ascoltare gli psichiatri, la malattia mentale è come il diabete e quindi tu devi curarti tutta la vista. Questo è un discorso che spesso le persone che si rivolgono alla psichiatria si sentono fare. E quindi sei malato tutta la vita, la pillola la devi prendere per tutta la vita. No, anche lì il problema sulla famiglia è il discorso ambientale, cioè non si mette in discussione l'ambiente dove questa persona sta a disagio. Cioè, ma è uno che è malato della famiglia e guarda caso la persona più debole, quello che è più in difficoltà. Cioè, e qui invece bisognerebbe, no, se io genitore ho problemi con te, innanzitutto dico questo fa così, ma io come mi comporto? Cioè, bisogna mettersi in discussione e capire, io mi comporto in questa maniera e questa persona mette in atto i meccanismi. Invece questa cosa non la fa nessuno, cioè non si va a vedere un ambiente perché è più difficile, perché è più faticoso, perché ci vuole degli strumenti, perché bisogna tempo, fatica, spendere, relazioni, e si dice no, qua ti sei malato, bisogna mettere in discussione il mio modo di fare, il mio ruolo, il mio comportamento. Questa cosa chi non ha strumenti, con le famiglie, è difficile, però. Questo è quello che cerchiamo di portare avanti, di fare, cioè di considerare la persona nelle relazioni, nel contesto e non... Quindi ricostruire caso per caso, eccetera. Chiaro che è complicato, non è che riusciamo a fare tutto. E fra l'altro ci arrivano richieste veramente da tutta Italia. Le telefonate sono tante, le persone in difficoltà che si sentono abusate dalla psichiatria sono sempre di più. Veramente, questo ci preoccupa molto. Tutte, indistintamente, veramente, sì. Anche minorenni, fino a persone anziane che sono abusatissime dalla psichiatria. Se pensiamo ai ricoveri per anziani, come addirittura la pillola ormai sia entrata, sia la prassi quotidiana per ridurre il personale di notte e quindi così dormono, e la pillola viene data a tutti gli anziani, è entrata nella normalità, è accettata da tutti, anche dai parenti che ricoverano i loro vecchi lì. Questo fa pensare anche come sono spezzati i legami sociali nella nostra società. In alcuni paesi, anche in Medio Oriente, così di questo di noi dicono ma come fate a fare così con i vostri anziani? Rimangono stupiti. Tra l'altro c'è da denunciare anche questo fatto che attraverso le nostre ONG, attraverso le nostre entrate come aiuti internazionali nei campi profughi in Turchia come in Palestina, come la Gaza, anche lì stia entrando il DSM, il manuale psichiatrico edito dagli Stati Uniti, che ogni anno viene rinnovato con nuove malattie, e sta entrando anche lì, quindi cominciano a entrare psicofarmaci anche lì, ho visto l'utilizzo anche lì, si sta cercando di introdurre il DSM anche nei campi. E quindi le donne curde che hanno perso i figli e che piangono di notte disperate nel campo profughi sempre più spesso venivano psichiatrizzate o portate addirittura nei manicomi ad Ankara, dove neanche parlano la loro lingua, per dire. Stessa cosa sta succedendo in Italia con gli immigrati sempre più finiscono psichiatrizzati, già nei CIE come sappiamo viene messo nel mangiare, no? Ma anche quando sono fuori, nelle strade, l'immigrato che sta in strada, che dà in escandescenze per tutti i motivi che possiamo sapere, viene facilmente indirizzato ai servizi psichiatrici. E a Pisa ne vediamo di aggirarsi nelle strade come zombie, e si capisce che sono sotto farmaco. Questa è una denuncia che va fatta, perché siamo sempre più usati proprio in questo modo, no? Nel carcere. Il 90% sì. delle persone. Ma lo richiede anche perché chiaramente per superare la reclusione uno dei modi è drogarsi, perché no? Per cui ci sono quelle droghe legali. Io dormo e meno carcere forse. E lì capisco anche il ricorso volontario. Però non si trova un farmaco per il mal di stomaco, per il mal di testa, ma mal di gocce per dormire quante se ne vuole. È una dura realtà. E invece qui Diego hai portato appunto uno dei vostri. Sì, noi siamo presenti alla vetrina con la distribuzione del collettivo, che è materiale cartaceo autoprodotto da noi, fotocopie così, e poi abbiamo anche una distribuzione di libri che parlano soprattutto di istituzioni totali, quindi carcere, CIE, e soprattutto psichiatria, manicomi e psichiatria. Abbiamo il libro autoprodotto da noi, che è scritto da noi, edito da Sensibile alle Foglie, che è l'Elettroshock, che è un nostro. Noi abbiamo fatto un percorso su quel libro, uno studio dalla nascita del dispositivo, qui dal 1938 ad oggi, e abbiamo raccolto testimonianze di persone che hanno subito l'elettroshock, attualmente vive in Italia, e su questo abbiamo scritto il libro. Visto che l'elettroshock si pratica ancora in Italia, molti non lo sanno. Abbiamo voluto fare il libro anche per questo. Esatto. Ed è legale e non si può vietare. Ospedali, eccetera, eccetera. Elettroshock si chiama. Elettroshock. Sì. Dalla nascita dei dispositivi ad oggi, sono testimonianze di persone che hanno subito il trattamento sensibile alle foglie. Poi qui alla vetrina presentiamo anche il nostro ultimo lavoro, che è un librettino. Cioè, il lavoro di Marco Rossi. Il lavoro di Marco Rossi, esatto, ha prodotto da noi. Sì, Marco ha fatto si chiama Corrente di guerra, parla della psichiatria militare e dell'uso della corrente elettrica durante la Prima Guerra Mondiale. Lavoro molto, insomma, per noi interessante e anche attuale. Attuale visto che comunque la psichiatria e l'apparato militare vanno a braccetto e anche tuttora oggi, insomma, continuano a essere dominanti. Sì, però è proprio di quegli anni, quelli che analizza Marco Rossi, quindi la Prima Guerra Mondiale, in cui entra la psichiatria nel corpo militare. E usarono, pensate, la corrente elettrica prima dell'invenzione dell'elettroshock per scovare i simulatori, quelli che non volevano andare in guerra e magari facevano finta di essere sordi, oppure quelli che avevano subito lo shock delle bombe e pensavano di curarli applicando gli elettrodi in diverse parti del corpo, non sul cervello come verrà fatto con l'elettroshock, da Cerletti, il nostro italiano Cerletti, che comunque era anche lui un combattente, ha combattuto la Prima Guerra Mondiale, ha inventato la spoletta di Cerletti, una spoletta delle bombe a scoppio ritardato, quindi era anche un inventore, ed è lo stesso inventore dell'elettroshock. Sì, gli obiettivi erano due, dell'uso della corrente elettrica, sia i simulatori, ma per riportare i soldati poi in trincea. Chiaro. Però non erano. Non pensavano che però era la guerra il problema. Dicevano che l'individuo era tarato, non sopportava perché era malato. Doveva tornare a fare il soldato. Non gli interessava. E per cui il fatto è stato vicino. E la gente ci ritornava, quindi di curarla tra virgolette più velocemente possibile. Il libro è interessante, parla chiaramente anche degli internati durante la guerra, quindi quanti, 40.000 mi pare furono, sì, parlerà meglio lui. Sì, domani parlerà meglio Marco. Ecco, però sì. La presentazione è domenica alle 18.20 qua in saletta. Qua sopra al primo piccola, piano, vi aspettiamo numerosi. Sarebbero altre 1000 domande, ma... Sì, no, era per dare una panoramica generale, in particolare. Noi chiaramente abbiamo il nostro sito. Sì, volevo dare infatti le coordinate. Antipsichiatria Pisa. @inventati.org è la mail. Poi abbiamo il sito che è artopisa.noblogs.org e il telefono può chiamare, lo rispondiamo sempre, che è 335 700 2669. Aiuto, non telefonate in troppi, c'è un casino, qualche volta non si risponde, ma insistete, poi telefono 24 su 24. No, magari di notte no, però. Sì. Poi se trovate occupato richiameremo noi, insomma, in qualche maniera. Io vi ringrazio, grazie a voi, da parte di Radio Wombat, e alla prossima. Io nel frattempo ho acceso la luce perché avevamo creato un ambiente da seduta spiritica e invece adesso abbiamo risolto, tutti vestiti di nero, sembrava proprio Dove sei spirito? Sono qui. Grazie ragazzi, grazie mille.